ascoltami. Io non riesco, sai, a stare senza te. Io non riesco, sai. Lunghe ali di fuoco ha coperto la luna sopra di te. Ma che cielo stasera, ritorni sereno intorno a me e veda gli occhi di luna e veda gli occhi. Più bene a me, da quando hai detto che we'll be right back.